la mia TV, ma non funziona più. La radio muta stava, non ha più figlio ormai. Che disastro è mai qua, tu non sei qui con me. Se non esco lo so, credo che scoppierò. Mongo can roll, suonò, suonò e tutto cambiò, cambiò, cambiò. La porta si aprì, si aprì, si aprì e tu stavi lì. Suonò, suonò e tutto cambiò, cambiò, cambiò. La luna ballò, ballò, ballò e un vento d'amore si levò. Forse un miraggio sei, i numeri darei. Pensavo che tra noi fosse già fatta ormai. Ma ti cerco e tu mi dici che non vuoi. Marcia indietro tu fai e io non volo più. Man rock and roll, suonò, suonò e tutto cambiò, cambiò, cambiò. La porta si aprì, si aprì, si aprì e tu stavi lì. Cambió, cambió, cambió, la puerta se abre.